Garibaldi fu ferito ad una gamba. Gazzettino del Risorgimento, la storia dell'Unità d'Italia. Per Garibaldi, viva! È il maggio del 1849. Tregua tra Roma e i francesi cade sotto i colpi degli austriaci Firenze. Massimo D'Azeglio a capo del governo a Torino ed è ammalato Vittorio Emanuele II. New York, la disputa tra due attori finisce in tragedia, 20 morti. Una buona giornata da Simone Spezia e dalla redazione del Gazzettino del Risorgimento. In apertura di questa edizione ancora le vicende delle repubbliche del centro Italia, iniziando dalla Toscana. La Toscana repubblicana è finita così, sotto il tallone di stivale di Costantino d'Aspre, tenente feldmaresciallo di Sua Maestà Imperiale Francesco Giuseppe I d'Austria, il 25 maggio. A dire il vero, la fine della Repubblica era iniziata senza bisogno di interventi stranieri, come spesso è accaduto in Italia. La dittatura ultrademocratica di Guerrazzi era inaccettabile per troppi sulle rive dell'Arno. E così il municipio di Firenze il 23 marzo aveva dato avvio a una controrivoluzione al termine della quale Guerrazzi veniva arrestato, mentre al governo andavano Ricasoli, Capponi, Torrigiani, Capoquadri e il maggior generale Conte Luigi Serristori. Solo Livorno, ultrademocratica, non aveva accettato il cambio di governo. A questo punto la svolta. Serristori, inviato a Gaeta per riprendere i contatti con Leopoldo II, ne è ritornato con la carica di commissario plenipotenziario del Granduca il 4 maggio e ha proclamato la nullità degli atti governativi tra l'8 febbraio e l'11 aprile, avviando la normalizzazione. Intanto il 5 maggio il generale austriaco D'Aspre ha iniziato la sua avanzata. Prima Lucca, poi Pisa, quindi l'assedio di Livorno il 10 e 11 maggio, cominciato con un bombardamento e finito con saccheggi e rappresaglia. I fucilati sono stati oltre 300, ma qualcuno parla di 800. Il governo fiorentino, che fino a quel momento aveva ben accolto gli austriaci, di fronte alle violenze ha protestato. Ma ormai la svolta era compiuta e il 25 maggio i soldati di Vienna sono entrati in città. Paolo Piacenza, il Gazzettino del Risorgimento, Radio 24. Intanto Roma è stata respinta, come vi abbiamo raccontato nella precedente edizione, l'avventata azione del piccolo corpo francese di Oudinot a fine aprile e poi le truppe della Repubblica hanno vinto anche un corpo di spedizione del Regno delle Due Sicilie e un altro inviato dalla Spagna. Mazzini, vero capo dei triumviri, ha firmato una tregua con i francesi, ma il generale Oudinot ha intanto avuto rinforzi e si preparerebbe ad attaccare la città eterna. La politica torinese ora con Massimo D'Azeglio, che sarà il nuovo capo del governo. Il marchese ha sciolto la riserva e accettato l'incarico, nonostante voci a lui vicine raccontino che in questa fase così delicata avrebbe preferito tenersi fuori. Peraltro la sua nomina arriva in un momento nel quale è reggente il fratello di Vittorio Emanuele II, Ferdinando. Il re Savoia è gravemente ammalato, a letto con i reumatismi aggravati da complicazioni polmonari. Una disputa tra due grandi attori, e siamo negli Stati Uniti, a New York. Si tratta dell'americano Edwin Forrest e dell'inglese William Charles McCready. Su chi fosse il migliore ad interpretare Shakespeare si è tramutata in una tragedia, scontri di piazza. I supporter di Forrest si sono presentati all'Astor Opera House e hanno lanciato uova e pomodori a McCready, che interpretava il Macbeth. Tre giorni dopo, fuori dal teatro, prima della nuova rappresentazione di McCready, erano raccolte 10.000 persone. Ci sono stati violentissimi scontri con la polizia, almeno 20 le vittime e 100 i feriti, di cui 50 agenti. È tutto, andate sul nostro sito e scaricate il nostro foglio quotidiano, scriveteci su Facebook o all'indirizzo gazzettino@radio24.it. Da Simone Spezia, che ha condotto questa edizione, l'ha curata insieme a Paolo Piacenza, una buona giornata.